E questo perché questa è una realtà da lontano 1977 completamente autogestita senza qualsivoglia forma di pubblicità. E quindi se si vuole preservare questo spazio di libertà politica, etica, anche culturale e musicale, è necessario aderire. Degli affezionati di questi spazi già l'hanno fatto in qualche numero. Nello specifico c'è Anto Zoviet, che vado a salutare, Omicidio, progetto industrial da Firenze, e so che per certo che molti stanno per aderire, e gli indecisi quindi li invito a farlo. Saluto Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Tiziano Frinacci di Pi Greco, Jessica che ci sta ascoltando a Catania, Bruno Cossano da Ivrea, Francesco Cornello in quel di Bergamo. Lucia Cagliazza in arte Lupsi, un saluto ad Anna qui a Roma, il medico della peste. Un saluto a Venusia Stramonio, che ci sta ascoltando dalle Marche. Laura Spirit Crusher, Giuseppe Verticchio di Nim, Like Awake qui a Roma. Ricorderete la scorsa settimana quei problemini tecnici che hanno un po' caratterizzato soprattutto l'inizio di prove tecniche di trasmissione, che in qualche modo hanno penalizzato Alfa Privativa, cioè quel progetto dietro al quale si nasconde il nostra, perché non sappiamo il sesso, Venusia Stramonio. Del sesso di Venusia Stramonio ce ne frega se poco, la cosa importante è il valore artistico di Alfa Privativa, e quindi ci ascoltiamo isometrica di un sonniloquio, Barba pa Parkinson e Blattosfera. Una prima sezione del programma l'abbiamo dedicata ad Alfa Privativa, questa nuova avventura sonica di Venusia Sozzetta Stramonio. Ci siamo da poco relazionati anche privatamente parlando di musica e ho scoperto appunto che dietro questo pseudonimo si nasconde un fior di musicista, sia attraverso Alfa Privativa, che è più recente, ma anche con lo storico progetto Cupio Dissolvi. Quindi, e Venusia può confermare, l'ho un po', come dire, incoraggiato a mettere sulle varie piattaforme che possono essere Bandcamp e SoundCloud il suo materiale. E per quanto riguarda Alfa Privativa, già ne esiste un po' su SoundCloud, mentre Cupio Dissolvi lo si può trovare su Bandcamp. Lui mette un numero del telefono per eventuali insulti, un numero del telefono molto strano, perché sarà sicuramente una coincidenza, è piena di 69 dentro appunto il numero, il che mi fa sospettare che sia molto più che falso. Ma non ci sarebbero insulti, bensì molti complimenti all'arte di Venusia Stramonio e quindi di Alfa Privativa in questa circostanza. Saluto Francesco Monaci di Smizzo, partner spesso insieme a Cristiano Bocci nei vari progetti. E mentre sentiamo qui un lamento, diciamo tra virgolette un lamento, noi andiamo avanti. Questa traccia ce l'ascolteremo mercoledì prossimo e andiamo a Napoli da Raffaele Pezzella, che per un paio di puntate avevamo abbandonato, e lo andiamo a ritrovare con Splash Sounds gruppo label. E perché lo andiamo a trovare? Perché ha anche stampato una compilation riguardante l'arte più sotterranea proveniente dal Sudafrica, quindi capirete anche l'interesse che si può provare, perché noi siamo abituati a materiale di origine anglosassone oppure, che ne so, giapponese, eccetera eccetera, ma dal Sudafrica, come in passato per esempio dall'Iran, dal Libano, dal Brasile, non ti aspetteresti invece un fior di musicisti che vengono ricercati tramite anche collaborazioni con artisti locali. Ed è quindi sono venuti fuori 12 artisti e 12 tracce in questa compilation. Iniziamo con Nonenzia, con Kala Kakiri. Poi Pierre Henry Wicomb con Heavenly Hovering. E poi Nardus Niemand con The Great Southern Cross. Thank you. Vedo che molti di voi hanno un trasporto mistico, perché chi sente prove tecniche di trasmissione in genere è fornito di grossa sensibilità artistica, ma non solo. Eccolo qua, Nardus Niemand, The Great Southern Cross. credo che sia di indubbio interesse il fatto che noi abbiamo magari dell'Africa, del Sudafrica, una concezione particolare, immaginandoci delle sonorità di un certo tipo. E invece poi questa compilation dal nome South African Music Survey Anthology of Contemporary Music from South Africa va a fondere elementi della cultura musicale di laggiù, non ultimo la tribalità, il tribalismo, con nuove concezioni sonore più d'avanguardia. E credo che il risultato sia più che suggestivo. E lo abbiamo apprezzato con questi tre primi artisti. E li ricordo. Nonensia con Kala Harakiri, Pierre Wicomb, Evely Overing Wicomb e Nardus Niemand con The Great Southern Cross. Prima di andare avanti, una breve due parole su un evento che si terrà qui a Roma sabato prossimo 15 aprile. Un evento musicale, cioè verrà presentata la compilation Ossido di Cromo, che manderemo anche più avanti, una sorta di compilation che rende omaggio alla vecchia scuola industriale soprattutto degli anni Ottanta, prendendo degli spezzoni musicali di allora, riveduti e corretti e assemblati da Adriano Vincenti di Macelleria Mobile di Mezzanotte e Paolo Bandera di Sigillum S e tanti altri progetti. Loro suoneranno anche dal vivo, ci sarà poi l'ambient romano di Like Wake e la sperimentazione proveniente dalla Toscana di un altro pezzo grosso degli anni Ottanta che è Daniele Ciullini. Al termine del tutto un DJ set del sottoscritto e anche di Noctibus Panis, programma che va in onda sempre da queste frequenze ogni venerdì dalle ore 21, un programma più gothic e dintorni. Chi sta sulla chat vede anche il posto dove si farà. Chi non è di Roma può anche contattarmi privatamente. Io invito chi non è anche di Roma a venire a passare un sabato qui da queste parti e a godersi questa ottima serata musicale. Ci sarà anche del merchandising, come si suol dire. Lasciamo la compilation del Sudafrica e andiamo dalla Dissipazio di Nicola Quiriconi. Nicola Quiriconi, rappresentato questa sera con due lavori. Il primo è di Luca Giuoco, che saluto. Collettivo Inconscio volume 1, è in preparazione anche un volume 2. Anche qui è una sorta di collage che va a riprendere vari contributi di tanti tanti artisti del passato che ho già menzionato nelle puntate precedenti. Questa sera ci andremo ad ascoltare le due tracce conclusive, Shanti Three Times e Revolution of the Spaces. Thank you. Un rapimento mistico e sensuale, tanto per citare il grande Franco Battiato, dannata. Drone scurissimi e ipnotici, ma anche assonanze kraut cosmiche. Veramente un rapimento mistico e sensuale, questa ultima opera di Luca Giuoco, Collettivo Inconscio, volume 1. Giustamente Antonio, da grande intenditore, lo va a parametrare anche ai più intimi Current 93 di David Tibet. Che peraltro ci mette a conoscenza della ristampa di England's Hidden Rivers, che se non ricordo male è proprio un libro dedicato a Tibet, Nursi with Wound, e correggimi se sbaglio Antonio. E che comunque, tornando alla Dissipatio, grosse uscite per questa etichetta di Nicola Quiriconi, e questa Collettivo Inconscio volume 1 sicuramente era di un valore superiore, al pari della prossima How Far Can You See di Satan Is My Brother. Dove il concetto di drone è unito in salsa dark jazz, una commissione veramente interessante tra jazz, industrial e ambient. La traccia, diciamo la quinta, che però porta il nome di movimento numero 3, ce lo andiamo ad ascoltare da Satan Is My Brother. Intanto sono quasi le ore 22. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e tripla www.ondarossa.info. Vado a salutare Anna in questo momento in automobile connessa con Radio Onda Rossa attraverso la vecchia cara FM dunque. Unus Aylin invece via web chiaramente dal Piemonte. Enrico Ponzoni di Sokoshibutsu Project e Doriana Panico a Taranto. Ci siamo inoltrati in questi territori al confine col jazz con delle giuste influenze citate di John Zorn da un lato, ma anche l'esperimentazione di Steven Stapleton di Nars Whitwound, questo dall'altro lato, di Satan Is My Brother, da questo How Far Can You See, disco super sempre della Dissipatio, sempre del 2022, nella parte finale dello scorso anno.